Italia in controluce. È il 5 dicembre ed è il pomeriggio di Radio 24, quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Domeniche ecologiche, targhe alterne, centri della città chiusi oppure parzialmente aperti. Ogni comune fa dunque i conti con l'inquinamento tra traffico da riscaldamento e propone le sue ricette. Alcune certamente funzionano, sono collaudate, altre molto meno. Ma sembra non esserci un'indicazione nazionale condivisa. C'è chi lo fa senza scontentare i commercianti, chi prende provvedimenti perché si dichiara fortemente ambientalista, chi lo fa tanto così perché lo deve fare, come se ogni amministratore andasse per la sua strada alla ricerca di una sperimentazione possibile. Si naviga a vista in Italia nei giorni in cui nelle grandi città si respira a fatica. Il reportage di Cristina Carpinelli. Domenica 20 novembre a Milano e in parte anche a Roma è accaduta una cosa a dir poco sorprendente. I sindaci delle due città, forse le più assediate dal traffico automobilistico in Italia, hanno dato vita alla classica domenica ecologica. Sembra un copione vecchio e trito, la signora intervistata mentre sta comodamente seduta in auto che dice non serve a nulla, un altro automobilista che rassegnato annuncia che rispetterà la regola. Non penso che con la domenica nel traffico salviamo il mondo, insomma. Si chiamano in gergo giornalistico vox pop, una delle pratiche più inutili e diffuse quando si trattano temi come questo, soprattutto perché quanto avvenuto a Milano è stato riconosciuto trasversalmente come un giorno diverso, con la città avvolta nella nebbia romantica, lo sferragliare dei tram, le luci gialle, Dario Fo che teneva una lezione da Nobel su Raffaello, Tintoretto e Pier della Francesca in Brera con migliaia di milanesi in fila per entrare. Bastava andare un po' più in là e Lella Costa, nella sala fontana del Museo del Novecento, teneva a bada 6.000 persone. Le piscine erano aperte e ci si poteva entrare gratis e per strada i bambini giocavano a bandiera, c'erano concerti, mostre, laboratori. Era una città meravigliosa, quella Gran Milano che da tempo non si vedeva. Le cifre parlano chiaro, 15.000 ingressi tra musei e teatri, una cifra da capogiro se si pensa che normalmente Milano nel fine settimana si svuota. L'esperienza vissuta però non sarà replicata in questi termini. Per abbattere il problema delle polveri sottili, infatti, Milano va verso l'ambizioso progetto della la congestion charge o zona C e la gigantesca torta il cui perimetro lambisce l'area all'interno della cerchia dei bastioni. Per entrare in quest'area centrale, che è poi l'area in cui tutti dall'Interland affluiscono, si dovrà pagare 5 euro. Entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e resterà a titolo sperimentale per i successivi 18 mesi. Riguarderà 1.700.000 pendolari che ogni mattino entrano dai comuni circostanti. Per capire come potrebbe andare a finire questa storia, siamo andati a Stoccolma. Nella capitale svedese ci sono solo 750.000 abitanti, ma è anche vero che è una città che si sviluppa su 14 isole collegate da ponti. La tassa è stata introdotta dal Parlamento svedese nel 2006 dopo un referendum, al termine di un periodo di prova durato un anno. Come sta andando? Eva Soderberg è l'assessore che si occupa del traffico. We first implemented it as a trial. Per prima cosa, come primo effetto, abbiamo ovviamente visto una diminuzione del traffico interno alla città del 20%. Questo per quanto riguarda i primi 6 mesi di sperimentazione della congestion charge. Dopo il primo anno di sperimentazione abbiamo messo regole più severe e ci siamo accorti che il traffico in ingresso in città era ridotto, calato al 70-80%. La gente come l'ha presa? Come hanno reagito all'introduzione di questa tassa? So che avete istituito un pagamento per entrare in città dopo un referendum, però vorrei capire come ci si è avvicinati, con quale spirito a questa scelta? All'inizio erano davvero contrari. Erano tutti negativi, l'intera opinione pubblica era contraria e negativa. Si parlava della congestion charge come fosse qualcosa che riguardava noi dell'amministrazione locale e non si capiva quali benefici avrebbe avuto poi sulla salute di tutti, sullo stile di vita di tutti. Oggi invece siamo tutti d'accordo nel proseguire con questa scelta dal sindaco all'ultimo cittadino. Tutti hanno accettato e ora apprezzano quanto abbiamo fatto. Ma voi, prima di far partire questo provvedimento, avevate preparato la città? Cioè, avevate rinforzato i mezzi pubblici? Avevate fatto cose per la città stessa? Yes. When we first started to introduce congestion tax, we did a massive improvement of the public transport. So that people could have alternatives that they can use other ways. Certo, sei mesi prima di introdurre la tassa abbiamo fatto un piano di incremento massiccio di trasporto pubblico. Volevamo che la gente cominciasse ad avere l'opportunità di scegliere come entrare in città. Abbiamo aumentato le corse dei treni, dei traghetti, degli autobus. Sei mesi prima abbiamo iniziato, ma la gente non li usava molto. Hanno cominciato a cambiare i loro atteggiamenti e le loro abitudini quando abbiamo introdotto la congestion charge. Oggi ci sono tanti modi per muoversi a Stoccolma. Ad esempio, alcune persone si sono organizzate e si muovono assieme in macchina. Abbiamo poi inventato delle formule di biglietti aperti per potersi muovere per una giornata e poter così fare shopping. Gli stessi negozianti che credevano di essere penalizzati oggi si stanno ricredendo. La città è più bella. Ma credo che il successo più importante sia stato quello di aver fatto capire a chi non si muoveva senza automobile che è possibile e che si arriva al lavoro più in fretta e più sicuri. Be without the car, that they have to take the car. They can get to work much faster and much safer because there is less traffic. Anche a Milano ci si sta muovendo. Non mancano le iniziative per incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici, come racconta scherzosamente Andrea Poggio di Legambiente. Tessa la tiene, la testa del Bike Me, la testa del cachet e pure quella di Legambiente, in cui hai altre decine e decine di sconti. Che vuoi di più? Venghino, signori, venghino! Resta il fatto che, per quanto piacevole a una domenica a piedi ogni tanto, per i milanesi l'auto è quasi sacra e dunque non sono pochi i detrattori dell'area C. Così come gli svedesi, anche i milanesi contrari sostengono che si tratterà di un rimedio che risolverà poco o niente e che invece si dovrebbe agire sul riscaldamento domestico. È vero, ma è anche vero che l'inquinamento da polveri sottili prodotto dalle automobili rappresenta circa il 30% e non è poco. E partire da qualche parte si deve. Lo hanno pensato anche i cittadini che l'anno scorso, in piena giunta Moratti, hanno deciso di fare una class action contro lo smog. Li rappresenta legalmente l'avvocato Claudio Linzola. Una serie di cittadini hanno ravvisato l'opportunità e la necessità che si facesse qualcosa di più concreto della politica, cioè delle chiacchiere. Avvocato, chi sono le persone che lei rappresenta? Sono delle famiglie, sono persone giovani, sono persone anziane, sono persone malate, sono persone sane, ci sono dei minori. Racchiude i 175 attori racchiudono uno spaccato tipico di una città. C'è dentro di tutto, c'è chi sta bene e chi sta male. È la prima class action che viene fatta su un tema nel come questo? Nel mondo. Dette tutte queste cose, è bene ricordare che le cosiddette PM10 sono emesse da impianti industriali, dal traffico, dal riscaldamento domestico e possono provocare asma, problemi cardiovascolari, cancro al polmone e morte prematura. Attualmente il superamento dei valori limite in vigore in Europa tocca 83 milioni di persone. Superano i limiti l'Italia, la Germania, il Regno Unito, la Svezia, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Slovenia e l'Estonia. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulla congestion charge. Era Italia in controluce, la seconda edizione. Ricordo, siamo su Facebook, la pagina del gruppo, siamo presenti su Twitter e rintracciabili via mail a controluce@radio24.it. siamo anche con il blog su radio24.it. torniamo domani alle 6.30 con una nuova puntata, la pillola di Radio 24, Italia in controluce.